H è un gruppo di persone, di umani fondamentalmente, che all'indomani del 24 settembre, che è la data dell'approvazione all'unanimità in Consiglio dei Ministri del decreto legge 113/2018 in materia di sicurezza, ha cominciato a domandarsi come si potesse far fronte all'avanzata di questo razzismo, di questa subdola xenofobia che traspira proprio dalle pagine del decreto. C'è da fare una premessa: Bologna è una città che ha una storia di resistenza ed una tradizione di movimenti dal basso. Sono realtà che da anni registrano e denunciano il deterioramento di rapporti sociali e che lavorano incessantemente per intervenire e investire su questa rotta. L'assemblea che si è costituita spontaneamente è composta e attraversata da persone che queste realtà e queste iniziative le frequentano, le conoscono o che sono a vario tipo impegnate. Sì. Se ho capito bene dal comunicato, lo scopo di H poi non è tanto quello di creare solo un'altra soggettività che sia antirazzista, ma anche soprattutto di coordinare in realtà quelle già esistenti. Sì, esattamente. H, che sta per Assemblea Cittadina Continua Antirazzista, in realtà si propone di creare uno spazio in cui queste realtà possano confrontarsi, informarsi, formarsi e sostanzialmente organizzarsi, perché crediamo che in questo momento sia necessario serrare i ranghi e raccogliere le forze per condividere le lotte e supportarsi negli sforzi. Quindi il nostro obiettivo è la connessione fra realtà già costituite, fra libere individualità, tra gruppi, associazioni, assemblee, collettivi, comitati, varie esperienze di occupazione e autogestione che costruiscano insieme una rete solidale e dialogante che si contrapponga in maniera compatta a chi vuole disgregare il tessuto sociale. E il respiro, diciamo, di questa assemblea sarà appunto cittadino, ma volevo chiederti se avrete comunque anche un orientamento rispetto appunto a temi nazionali e se cercherete anche di coordinare magari altre realtà da altre grandi città come possono essere Roma o comunque al di fuori di Bologna, diciamo. Se dobbiamo fissarci un obiettivo a lunghissimo termine, perché no? Intanto preferirei ribadire che l'attenzione di questa assemblea in questo momento è concentrata sul presente. Il nostro è un potenziale in divenire, però dobbiamo rimanere ben concentrati sulla costruzione di un percorso passo dopo passo. Se già riuscissimo a creare quello che ci siamo proposti di creare sulla piazza di Bologna, sarebbe un grandissimo risultato. È ovvio che compagne e compagni che sono attivisti della rete di Bologna conoscono e hanno già centinaia e migliaia di contatti con compagni e compagni attivisti in tutta Italia. Il salto di qualità a livello nazionale lo vedremo dopo, se sarà soltanto possibile per adesso riuscire a organizzarsi e coordinarsi sul territorio di Bologna. E un'ultima domanda: si terrà anche un'assemblea questo mercoledì proprio di H, quindi come sarà organizzata, chi parteciperà e anche un po' di informazioni magari pratiche per chi volesse intervenire. Questo mercoledì 14 novembre alle ore 18:30 abbiamo chiamato un'assemblea pubblica al Centro Interculturale Zonarelli di via Sacco 14 in San Donato. È un'assemblea che si pone l'obiettivo di organizzare e costruire insieme un percorso di resistenza e quindi che invita un po' e chiama tutte quelle realtà del territorio che sono impegnate nell'antirazzismo, ma anche nell'antifascismo, nell'antifascismo, e che vorrebbero entrare in relazione fra loro per organizzarsi. Il programma di mercoledì è molto semplice: dalle 18:30 presenteremo un po' quella che è l'assemblea di H, parleremo dello scopo, della struttura, degli strumenti che stiamo cercando di approntare, poi chiederemo attraverso l'apertura dell'assemblea agli interventi pubblici e contributi, chiederemo ai partecipanti di intervenire, di darci le loro idee, di capire un po' come viene recepita questa proposta e quali sono i margini di collaborazione, e semplicemente vorremmo che l'assemblea si concludesse raccogliendo quanti più contatti e dati possibili prima di essere rilanciata come un incontro magari mensile o trisettimanale che possa vedere appunto uno spazio di organizzazione di tutte le realtà rappresentate da singoli o dati che coordinano la risposta antifascista, antirazzista, antisessista di Bologna.